6, 7, 8 maggio a Bologna si terrà l'evento A Sante, tre giornate in ricordo di Sant'Enotar Nicola, e noi siamo qui per parlarne con uno degli organizzatori, Donato Cardigliano. Ciao Donato, benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao, buongiorno a tutte e tutti. Allora Donato, saranno tre giornate molto intense, musica, proiezioni, dibattiti, mostre, veramente tanti tanti eventi per ricordare Sante. Ma ti volevo chiedere se c'è una sorta di filo conduttore, filo rosso di questo festival, di questi tre giorni di festa, oltre ovviamente il ricordo a Sante. Sì, perché abbiamo cercato di ripercorrere un po' quella che è stata la figura di Sante in tutte le sue sfaccettature, perché molto spesso si ricorda solo magari o il poeta, o il detenuto, o il compagno. In realtà Sante ha avuto più vite, nel senso che da quando è uscito poi dal carcere, dopo l'esperienza di 21 anni di detenzione, ha partecipato, ha promosso moltissimi progetti. Quindi volevamo in questi tre giorni un po' dare una visuale un po' più completa della personalità di Sante, a un anno della sua morte purtroppo, perché è avvenuta il 22 marzo dell'anno scorso, e quindi abbiamo avuto un po' necessità di un po' di tempo per metabolizzare un po' la perdita. Tra i tantissimi eventi, uno che mi piacerebbe approfondire è il laboratorio di scrittura rap. Che cosa ci puoi raccontare al riguardo? Guarda, è stata un po' un'idea di alcuni rapper bolognesi, anche perché Sante aveva già partecipato al disco degli Assalti Frontali negli anni 90, quindi il suo rapporto, diciamo, con la musica rap e con questo mondo, diciamo, viene da lontano. E quindi, mentre stavamo organizzando un po' le giornate, ci è stato proposto di fare questo laboratorio che si chiamerà Dalle parole di Sante alle nostre rime, che sarà coordinato da Fu Chiodo, un rapper bolognese, e quello che sarà poi il prodotto verrà presentato la domenica sera dal palco, diciamo, dell'ex centrale. Quindi anche per noi sarà una sorpresa, perché sarà un progetto totalmente autogestito. Senti Donato, ma c'è qualche altro evento che ti va di approfondire, in cui appunto vuoi invitare i nostri ascoltatori e ascoltatrici a partecipare? Ah, sì, sicuramente. Allora, il venerdì, adesso magari a grandi linee spiego un po' come si articoleranno, certo, le giornate. Il mercoledì e il venerdì 6 faremo un po' un giro per Bologna nei punti, diciamo, più evocativi, partendo da Piazza dell'Unità alle 17 e arrivando poi in Piazza 20 Settembre vicino alla stazione, e da lì al Sacrario dei Caduti in Piazza Nettuno, e infine in San Rocco al Pratello, per quello che ha significato Sante il Pratello. In ognuno di questi punti verranno lette poesie, saranno fatte delle performance, ci sarà l'hardcore di Via dei Marchi, ci sarà la banda Roncati, poi Alberto Masala che leggerà le poesie, Mamma Valentini, Eva Maeva, l'associazione Casa del Mondo con i bambini, che anche loro parteciperanno a questo giro. Quindi sarà un modo per portare Sante nella città. Mentre sabato e domenica si svolgerà tutto alla ex centrale, e in particolare sabato mi interessa molto sottolineare questi incontri che ci saranno a partire dalle 16, dove partendo un po' dalle rivolte carcerali degli anni 70, che hanno visto Sante protagonista, si arriverà al carcere di oggi e alle rivolte del marzo 2020 che causarono la morte di 13 detenuti. Quindi sarà questo filo rosso tra le lotte carcerali di ieri e quelle di oggi. E mentre il giorno dopo si parlerà poi di tutti i progetti che Sante ha promosso, organizzato, condiviso, e quindi parteciperanno tutta una serie di compagni che con lui hanno lavorato, tipo Claudio Bolognini, li cito così, Claudio Bolognini, Bernardo Iovine, Simone Bacchini, Nicola Laudati, Nino Carnatà, Fabio Bonifacci, Rufo, che è un pittore, Tiziano Luciani, Rosa Ugolini e Valeria Tanas. Ognuno di questi ha partecipato a un progetto specifico con Sante, dal video su Marzabotto fatto con Bernardo al libro I ragazzi della barriera, a cui ho collaborato con Claudio Bolognini, e via dicendo. Infine mi interessa anche molto sottolineare l'aspetto ludico, musicale. Saranno tutti musicisti quelli che si esibiranno, che in qualche modo hanno avuto a che fare con Sante, e in particolare sabato ci saranno Marco Rovelli, Carmelo Pipitone di Marta sui tubi, Gigi Cardigliano, Marco Coppi e Zulù dei 99 Posse. Mentre domenica ci sarà una lettura di poesie da parte di Paolo Capovilla, Ghieri e Peppe Voltarelli, e infine ci sarà appunto la presentazione del lavoro del laboratorio di scrittura che dicevamo prima, del laboratorio di scrittura rap, dalle parole di Sante alle nostre rime. Quindi un programma molto intenso, speriamo che il tempo sia clemente per portarlo a termine nel migliore dei modi. Perfetto Donato, io ti ringrazio, insomma ci vediamo tutte e tutti questo fine settimana all'ex centrale per ricordare Sante. Grazie ancora Donato. Benissimo, grazie a voi, buongiorno.